La ilaha illallahu akramul akramin. Non c'è divinità tranne Allah, il più generoso dei generosi. La ilaha illallahu arhamur rahimin. Non c'è divinità tranne Allah, il più misericordioso dei misericordiosi. La ilaha illallahu habibut tawwabin. Non c'è divinità tranne Allah, l'amato da coloro che si pentono. La ilaha illallahu rahimul masakin. Non c'è divinità tranne Allah, il clemente verso i poveri. La ilaha illallahu hadil mudallin. Non c'è divinità tranne Allah, la guida dei deviati. La ilaha illallahu dalilul ha'irin. Non c'è divinità tranne Allah, la direzione degli indecisi. La ilaha illallahu amanul kha'ifin. Non c'è divinità tranne Allah, la sicurezza di coloro che hanno paura. La ilaha illallahu ghiyasul mustaghrithin. Non c'è divinità tranne Allah, pioggia abbondante per coloro che la chiedono. La ilaha illallahu khairun nasirin. Non c'è divinità tranne Allah, il migliore dei soccorritori. La ilaha illallahu khairul hafidhin. Non c'è divinità tranne Allah, il migliore dei custodi. La ilaha illallahu khairul warithin. Non c'è divinità tranne Allah, il migliore degli eredi. La ilaha illallahu khairul hakimin. Non c'è divinità tranne Allah, il migliore dei giudici. La ilaha illallahu khairul raziqin. Non c'è divinità tranne Allah, il migliore dei sostentatori. La ilaha illallahu khairul fatihin. Non c'è divinità tranne Allah, il migliore dei conquistatori. La ilaha illallahu khairul ghafirin. Non c'è divinità tranne Allah, il migliore dei perdonatori. La ilaha illallahu khairul rahimin. Non c'è divinità tranne Allah, il migliore dei crementi.